una buona giornata ai nostri radioascoltatori. Come sempre, un saluto particolare va ai nostri connazionali che ci seguono in ogni parte del mondo sul sito www.crmepiradio.it. La scaletta di oggi è un po' nutrita e dovrebbe raggiungerci studio intanto il vice sindaco Roberto Corsello. E abbiamo in studio il ragioniere Francesco Dolce, ex assessore comunale, ex presidente del Consiglio, e abbiamo anche in studio Salvatore Mangano del Movimento Urbe Città Nuova e Fabio Coco che fino ad ora ha ricoperto la carica di presidente della Proloco di Cefalù. Cercheremo di fare, tutto andrà in diretta, quindi ci possono essere dei problemi, ma noi speriamo che non ci siano. Faremo dei collegamenti con la BIT di Milano, dove c'è il presidente della provincia Giovanni Avanti, e cercheremo di raggiungere telefonicamente, se possibile, anche un candidato a sindaco del comune di Cefalù, e cioè Francesco Calabrese, che dovrebbe trovarsi in quel di Catania. E ci sarà in studio anche l'avvocato Pino Agostara, e ringraziamo anche per la sua presenza anche Riccardo Gervasi di La Voce Web, il quale proporrà anche qualche domanda ai nostri ospiti, ai nostri gentili ospiti. Bene, vorrei iniziare intanto con Salvatore Mangano. Si è tanto parlato in questo periodo di sindacature e si è fatto anche il tuo nome. Io mi permetto di darti del tu perché sei un po', forse sei più piccolo di mio figlio, e quindi tra l'altro sono amico di tuo padre. E volevo chiederti, ecco, che c'è di vero? So che sei vicino al sindaco, all'attuale sindaco Pippo Guercio, ma in realtà che c'è di vero in questo? Sei veramente un candidato sindaco, hai un supporto, credo, di questo movimento Urbe Città Nuova. Tu ce lo puoi chiarire intanto. Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio CRM che mi ha dato la possibilità, diciamo, di fare un quadro della situazione alla luce, diciamo, delle voci che ci sono stati anche intorno al mio nome. Intanto premetto che la mia non è una candidatura, o meglio, è stata una disponibilità alla candidatura, fondata sostanzialmente su due principi fondamentali, a mio avviso. Uno, il principio di umiltà, e uno, il principio di decisione, nel senso, umiltà perché secondo me in questo momento Cefalù, al di là dell'appartenenza politica, registra una frammentazione a destra, a sinistra, al centro, tale per cui secondo me per la città non è il caso di andare a fare delle candidature di rottura, delle candidature che non possono aggregare. La mia disponibilità infatti è condizionata al fatto che su questo progetto nuovo, Urbe Città Nuova, fatta, diciamo, che ha come fari principali, diciamo, la trasparenza, la lealtà, l'aggregazione, e non è legata al concetto di giovane quanto più che altro al fatto che ci siamo rincontrati diversi giovani, ma siamo in dialogo con altre realtà di cui vogliamo e chiediamo supporto ed esperienza. Dicevo, non nasce per aggregare. Il nostro concetto è questo. Vista la frammentazione che c'è in città, in tutti gli ambiti di partito, infatti sono contento che quest'oggi ci sia anche il signor Gervasi che ha scritto un articolo e sul quale volevo puntualizzare alcuni aspetti. Non è che noi siamo aperti a cercare di riunire il centrodestra, ho letto sull'articolo del signor Gervasi sulla Voce Web, PDL, Forza del Sud. Certo, PDL e Forza del Sud fanno parte dell'arco, diciamo, di persone che potrebbe interessarci, ma diciamo non disdegniamo assolutamente di dialogare con altre forze, diciamo anche di anche altre espressioni, anche se non di sinistra, per carità, di centro, perché di fatto secondo me il problema è superare questa frammentazione per la città. Certo, attenzione, non superarlo a tutti i costi, cioè nel senso, io sono assolutamente contrario a pensare che si vada a vincere cercando di fare ammucchiate, ma secondo me la modalità nuova di confronto deve basarsi, cioè la novità secondo me deve essere anche nelle modalità dello stare assieme, perché la vera vittoria eventualmente si vedrà soltanto in maniera sulla, nella fase amministrativa, perché di fatto è vero che purtroppo la legge 6 del 2011 impone per il nostro comune la necessità di coalizione, ma secondo me non è un'imposizione di legge perché per vincere bisogna unire, ma secondo me per amministrare, perché il concetto fondamentale che voglio sottolineare in questo momento è che la prima cosa da fare, secondo me, è pacificare il rapporto tra l'istituzione e la cittadinanza. Nessun progetto ambizioso, seppur basato in basato sui principi migliori, e forse avvicinare la politica al cittadino. Esatto. Che è lontano, a livello nazionale siamo al 4%, quindi esatto. Immaginate, e poi qui anche a livello locale non c'è questo scollamento totale, esatto. Veramente dai politici, dalla città, cioè, cerchiamo sostanzialmente di viverla con il rapporto, diciamo, di spirito di servizio, come dovrebbe essere la politica. Questo per il concetto di umiltà. Per il concetto di decisione, il signor Gervasi diceva, dietro ha fatto un sottotitolo all'articolo, diceva candidatura strategica. Ecco, su questo io voglio essere assolutamente netto. Nessuno pensi che dietro questa candidatura ci sia la volontà di strumentalizzare, diciamo, il nostro impegno per la città, per dire dietro c'è una voglia di rottura, diciamo, di certi equilibri, perché diceva lei. Tu sei vicino al sindaco Guercio, il sindaco Guercio è mio zio, perché è lo zio di mia moglie. Quindi assolutamente non c'è, al di là del rapporto politico che c'è stato tra mio padre che sostiene la maggioranza. Su questo voglio essere ben chiaro. Secondo me noi dobbiamo superare il concetto che c'è a Cefalù di io sono contro. Cioè questa frammentazione. Secondo me noi dobbiamo ragionare sul motivo di unione, cioè candidatura per. Se noi non superiamo questo concetto, la città perde, chiunque vinca, come diceva Saro Di Paolo, leggevo qualche volta, mi è piaciuto questo concetto sull'altra Cefalù. Quindi dobbiamo avere, diciamo, la serenità e la responsabilità, chi si avvicina a quest'ambito, di ragionare per la città e per il bene dei cittadini. Naturalmente di contro l'articolo di Vincenzo Lombardo sulla Sicilia web diceva tutto il contrario, cioè Guercio si mette da parte e lancia mangano. Anche questo, delle due entrambe sono false. Cioè, nel senso, c'è l'impegno, diciamo, da parte nostra in maniera chiara, trasparente, perché io dico sempre il nostro faro deve essere l'etica, la trasparenza e il rispetto, poi il resto si costruisce. Però su questi sono i principi sui quali secondo me non si può e non si deve negoziare. Poi su tutto, sui programmi, i programmi sono importanti, però sono importanti anche le persone e soprattutto anche come questi programmi vengono declinati. Sul dialogo, sul dibattito online che c'è su Cefalù News, sull'ultimo punto, la domanda dell'ultima settimana, io ho scritto questo. Sostanzialmente, se chi pensa di impostare programmi in maniera, rivolgendosi alla sfera immaginifica, pensando come la Cefalù, basta che si prenda lo statuto del comune di Cefalù, che io ho letto. Infatti è stato l'altro giorno, mi sono imbattuto a leggere lo statuto, la prima cosa che ho fatto, ho chiamato Fabio, e qui mi ha detto: Fabio, è bellissimo, c'è scritto tutto. In realtà il programma deve declinare in maniera chiara, semplice, per obiettivi, con tempi certi, quello che è poi lo statuto, perché altrimenti sono parole che poi di difficile attuazione. Quindi modalità e chiarezza degli obiettivi, questo è quello che voglio dire. Certo. E poi soprattutto rispetto e lealtà di tutti, perché ognuno giustamente ha delle... Diciamo non deve attaccare l'altro e cercare di l'avversario politico non è una persona da abbattere, è una persona a cui confrontarsi, e il rispetto e il rapporto di persone sono alla base di tutto. Dovrebbe altrimenti essere, non andiamo da nessuna parte, come la intendo io. Però non è stato e non è così, in realtà non è così. Si formulano tante ipotesi, Salvatore, tante volte si dice ci sarà quello candidato, l'altro che dà la sua candidatura, c'è qualcuno che si affanna a dire che vuole diventare sindaco di Cefalù, ce ne sono tante, sai, in queste frangenti, ognuno... E noi giornalisti tante volte riportiamo alcune, quello che si dice in giro, quello che c'è, quello che potrebbe avvenire. Ma c'è anche Ciccio Dolce ha una lunga militanza nel nell'agone politico, è stato presidente del consiglio comunale di Cefalù, quindi ora ha diciamo assieme ad altri amici, ha fondato un gruppo in vista delle elezioni. Cosa vi proponete, Gigi? Intanto buongiorno a tutti, a quelli che ci ascoltano, e un grazie a CR Madonia per l'opportunità che ci viene data. È un gruppo politico, e non lo consideriamo pertanto un movimento civico, perché fa riferimento alle correnti di pensiero del centro cattolico e del riformismo italiano. Cosa ci prefiggiamo? Ci prefiggiamo innanzitutto di far ripartire la politica sui binari normali e delle regole, perché riteniamo che sia indispensabile, io condivido totalmente il pensiero dell'amico Mancano, al quale rivolgo un augurio per la sua carriera intanto professionale ma anche politica, perché un giovane che si affaccia alla politica secondo me va incoraggiato, e i pensieri che ha espresso, siccome sono una persona onesta, quando dice che non bisogna essere contro e considerare l'avversario non avversario personale ma un nemico da battere, ma uno che da dialogare e confrontarsi, lo condivido totalmente in pieno, e quindi non posso che essere rallegrato, perché nella vita politica di Cefalù si presenta un ragazzo con le idee chiare. Io sono onesto e chiaro, no? Quando uno deve difendere il proprio partito, la propria parte, lo fa, ma quando deve difendere gli altri perché hanno idee sane, è giusto che lo dica, solo così si può crescere. Quindi grazie per l'opportunità che mi hai dato di poter dire ai radioascoltatori, ai cittadini di Cefalù, che un gruppo di amici che è composto da Iraci Carmelo, Eugenio Culotta, Bracco Salvatore, Gerbino, l'ingegnere Gerbino, professore Buongiorno, Cortina Gille che è consigliere provinciale, il fratello Santino, Geometra Herrera, il professore di Napoli, Glorioso Luciano, il sottoscritto e tanti altri, abbiamo dato vita a questo momento, ripeto, non per essere contro nessuno o per essere contro una candidatura di qualcuno, ma l'abbiamo creato, come dicevo poc'anzi, per unire, perché ci siano i presupposti per unire. Diceva l'ingegnere Mancano una cosa sacrosanta: la candidatura non deve essere un'espressione di sommatoria di voti. Io porto tanti voti, allora ci uniamo perché dobbiamo fare una forza. Dobbiamo fare un progetto per Cefalù e creare e cercare l'uomo che è di equilibrio in quel momento, che possa rappresentare tutti su un progetto per la città. Ma se ognuno si vuole candidare autonomamente, liberamente, senza che sottoponga al consenso degli altri la propria scelta, credo che non va nella direzione di volere contribuire. Diciamo che deve avere un supporto. Questo è quello che cerchiamo noi. Certo. Noi non cerchiamo candidatura personale. È falso quando si dice che io ho creato questo movimento per pormi di nuovo nelle condizioni di fare il candidato. Io non voglio fare il candidato, non sarò candidato, ma consentitemi che lo dica con immodestia, se volete. Non avrei paura di fare il sindaco, ma sono convinto che potrei dare alla città, ma mi devo rendere conto che non ci sono le condizioni politiche necessarie e normali per oggi pormi in questa condizione. E do spazio, e mi fa piacere che poter contribuire per la prima volta in campagna elettorale senza una mia partecipazione, diciamo, diretta a conquistare posti, non mi interessa, voglio solo contribuire insieme agli amici, questo è l'obiettivo principale, insieme agli amici che poco fa ho letto, vogliamo contribuire a che nella nostra Cefalù si cominci a fare politica, si cominci a discutere dei programmi, si risolvono i problemi e si va avanti nell'interesse di tutti. Sì, ma questo non esclude che dal tuo gruppo possa nascere anche un candidato sindaco, no? Oggi non c'è nessuno che... Allora, io dico, noi abbiamo Agile Cortina, che io ho trovato in questi giorni un ragazzo impegnato, lavoratore, disponibile, conosce i problemi, non è uno... Ed è consigliere provinciale. Io quando ho fatto il sindaco di Polizia Generosa, prima avevo fatto il consigliere provinciale. Dal consiglio provinciale mi sono poi finita la legislatura e mi sono candidato a sindaco di Polizia. C'è Gilli Cortina, che è la massima autorità politica del nostro gruppo, che potrebbe benissimo dire: io mi voglio candidare a sindaco. Lui, con molta umiltà, l'umiltà che parlava l'ingegnere Magro, ha detto: io prima ancora di poter porre la mia candidatura devo fare ancora esperienza. Quindi oggi, anche se sono impegnato, farei qualunque cosa, però non me la sento di essere candidato. Questa è umiltà. Quindi se la massima autorità politica che è all'interno del nostro gruppo già si assume una responsabilità per la città e partecipa proprio perché non aveva chi da fare, né un consigliere, né l'assessore, né... perché da consigliere provinciale, da cittadino del Cefalù, vuole dare il contributo, credo che la dice lunga su quella che è l'intenzione del nostro gruppo. Perfetto. Riccardo, credo che tu volessi porre qualche domanda ai nostri gentili ospiti. Sì. Intanto buongiorno a tutti. Io vorrei fare una domanda a Francesco Dolce, ma prima volevo chiarire con Salvatore Mangano dicendo questo. Innanzitutto, se ho scritto quell'articolo, non ho inventato nulla, ho parlato, no, condivido quello che ha detto. Aggiungo però una cosa, io ho parlato con il vostro coordinatore, con il portavoce di Urbe Città Nuova, con Giovanni Iuppa. E Giovanni Iuppa mi ha detto che il suo nome era uscito a seguito di una riunione tenutasi giovedì, non questo ma l'altro, come appunto candidato sindaco, perché la persona di Salvatore Mangano, un giovane che si affaccia adesso alla vita politica, potrebbe fungere da collante, testuali parole, da collante tra tutte le forze del centrodestra. A questo punto io ho chiesto: ma quando lei mi parla di centrodestra allude al PDL e al Grande Sud? Risposta: soprattutto al Grande Sud e al PDL, perché allo stato attuale si tratta di una destra frammentata, si tratta di una destra rotta, e la designazione di Salvatore Mangano serve proprio per unire, ma è una nomina informale, detto che sarebbe, come sarebbe a dire, e dice sì, informale, perché siamo pronti a fare un passo indietro qualora ci dovessimo rendere conto che Salvatore Mangano, anziché unire, divida di più. E allora a quel punto si rimette tutto in gioco. Questo è quello che mi è stato detto e questo è quello che ho chiaramente riportato. Mi piacerebbe sapere a questo punto come stanno effettivamente le cose. Ho capito il suo discorso d'apertura, però dico, mi piacerebbe capire se allora il suo nome rimane tra quelli dei candidati sindaci oppure se ancora non c'è nulla di certo. Salvatore, brevemente. Allora, e poi vabbè, l'altra domanda la volevo fare, approfitto, a Francesco Dolce. 5 anni fa era candidato del PDL, se non ricordo male, come sindaco, e da 5 anni a questa parte cosa è rimasto di quell'esperienza e soprattutto come tu vedi oggi il PDL? Chiarisco brevemente. Allora, per quanto riguarda la questione del portavoce, noi ad oggi non abbiamo un portavoce del movimento, quindi per quanto l'opinione di Giovanni che è stata riportata sia corretta in parte, cioè infatti non voglio fare polemica, non premetto né con chi lo ha detto, sicuramente nemmeno chi l'ha scritto. Il concetto di unità però non riguarda soltanto il centrodestra, cioè noi siamo pronti a dialogare con forze che possono essere di centro, come il presidente Dolce, ma come anche altre forze che siano anche nell'ambito del centro-sinistra. Sul discorso della disponibilità alla candidatura, la disponibilità resta nella misura in cui, come ha detto lei correttamente, ci si possa verificare questa unità. Quindi non è una candidatura, è una disponibilità alla candidatura, ribadendo il concetto iniziale. Riccardo, ti chiedo scusa, e anche Francesco Dolce, se dobbiamo rinviare di un po' la risposta, perché abbiamo in linea da Milano il presidente della provincia, Giovanni Avanti, credo. Sì? Sì. Pronto, buongiorno. Giovanni? Buongiorno. Buongiorno a te. Ti trovi alla BIT di Milano. Ecco, intanto come si è inserita la provincia di Palermo nel discorso della BIT di Milano? Su quali temi, Giovanni? No, ma intanto va detto che noi abbiamo fatto un'operazione con tutte le province siciliane attraverso l'unione delle province siciliane, sostituendoci alla regione siciliana che già ha deciso da 2 anni di non partecipare alla BIT. Quindi noi abbiamo come province siciliane portato il prodotto turistico di Sicilia alla BIT, ritenendo fondamentale che nella fiera più importante del turismo italiano a livello internazionale non fosse presente la Sicilia come, come prodotto turistico territoriale. E quindi abbiamo sviluppato questa iniziativa che ha visto insieme le diverse identità con un coinvolgimento di tutti i territori che hanno vissuto questa esperienza con protagonismo, tra l'altro hanno presentato le eccellenze del nostro territorio. Per ciascuna provincia, ognuno ha fatto la stessa cosa, e quindi da questo punto di vista è risultato un'ottima operazione, un progetto che è stato anche visto innovativo, perché abbiamo fatto economia di scala in un momento di crisi come questo. Abbiamo ovviamente razionalizzato le risorse affrontando un costo anche abbastanza contenuto di circa 28.000 euro per ogni provincia, a differenza del 1.500.000 che spendeva la regione negli altri anni quando partecipava alla BIT. Sì, Presidente, e noi, scusa. Chiaramente abbiamo presentato le eccellenze del nostro territorio provinciale con grande partecipazione, abbiamo legato i prodotti tipici del nostro territorio alla storia del territorio stesso e alla tradizione della nostra comunità provinciale, e quindi abbiamo avuto grande afflusso di pubblico, di operatori, c'è stato grande interesse verso la Sicilia. Certo. Verso le diverse parti del nostro territorio. Non c'è dubbio. Senti, Presidente, il giornalista Vincenzo Lombardo mi ha fatto avere qualche nota della provincia per quanto riguarda la vostra partecipazione alla BIT, ma lì il problema è ancora più esteso, perché mi pare che ci siano sia stata presentata qualcosa sulla Targa Florio, sui castelli, sì. Sui castelli, sulla Ryanair. Noi questo progetto sulla Targa Florio. Abbiamo presentato anche questa iniziativa che abbiamo di collaborazione che abbiamo stretto con Ryanair, che apre a nuove rotte che collegano Palermo con altre capitali europee, e soprattutto riteniamo che un vettore low cost come Ryanair possa essere uno strumento per incrementare notevolmente i flussi turistici nel nostro territorio, e quindi lo consideriamo un partner di elevato livello, soprattutto perché è sensibile anche agli eventi e alle vicende che legano il territorio. Sì, c'è un il dente batte dove il dente, diciamo, la lingua batte. Ciao, saluto dove vuole. Il vice sindaco Roberto Corsello, che intanto che ci ha raggiunto in studio, e anche lui è stato alla BIT di Milano. Alla BIT di Milano sono stati presenti anche tantissimi operatori, certo, cefaludesi, e quindi c'è sempre da parte di Cefalù grande attenzione. Senti, io vorrei ritornare, Presidente, sul parco tematico della mitica Targa Florio, se non altro perché per decine di anni come inviato del giornale L'Ora ho seguito sempre la Targa Florio. Quindi c'è in vista anche... abbiamo avviato questo progetto partendo dall'acquisto che abbiamo fatto del Tribune di Floriopoli come amministrazione provinciale 3 anni fa, proprio appena insediato. E su questo abbiamo costruito un progetto che vede la realizzazione di un parco tematico sull'automobilismo, ritenendo che la Targa Florio costituisce un mito, essendo stata la più importante e la più antica gara automobilistica, oggi rappresenta un fortissimo attrattore. Io mi ricordo che a quei tempi c'erano centinaia di giornalisti, alcuni anche con gli occhi a mandorla, c'erano un po' da tutto il mondo. Noi devi figurarti che quando noi abbiamo acquistato Floriopoli, io ho ricevuto email di ringraziamento dall'Australia, dal Canada, dall'Argentina, veramente da tutto il mondo, impressionante, decine e decine, centinaia di email che venivano, ricevo continuamente giornalisti inglesi e americani che impazziscono solo parlare della Targa Florio, quindi costituisce un grande attrattore. Noi riteniamo che sia un importante investimento da fare per la valorizzazione del nostro territorio dal punto di vista turistico, e quindi questo costituisce il primo passo per riportare. Ma è previsto peraltro anche un museo della Targa Florio, un auditorium, una pista Florio, di guida sicura. Di guida sicura, perché riteniamo che chiaramente un luogo di questo tipo deve anche guardare l'attuale contesto, e sicuramente i temi della sicurezza stradale sono temi importanti. E poi non esiste una pista di guida sicura nel sud Italia, quindi anche questo, legato al mito della Targa Florio, costituirebbe un elemento di grande attrazione, perché porterebbe tutte le case automobilistiche a venire a provare i loro nuovi prodotti, i loro nuovi modelli in quel circuito che ha fatto grande appunto il mito dell'auto. Certo, e quindi per chiudere, questo chiaramente avrebbe una ricaduta positiva sui flussi turistici e chiaramente sulle comunità di riferimento, così come tutti noi ci ricordiamo avveniva quando la gara veniva fatta ogni anno, figurarsi con una infrastruttura, una struttura che può accogliere tutto l'anno eventi legati all'automobilismo, sì, e gente appassionata che può sicuramente visitare quei luoghi, ma anche il museo che raccoglie tutti i cimeli legati al mito della Targa Florio. Presidente Giovanni Avanti, per concludere questa nostra piacevole chiacchierata, vi siete occupati anche di diffondere anche il nome di alcuni castelli della provincia di Palermo, come Caccamo, Carini, Castelbuono, Giuliana e Marineo, ma ecco, tu puoi fare in conclusione, anche in un momento di crisi, un bilancio della partecipazione della provincia alla BIT? Abbiamo anche presentato il circuito dei castelli, perché riteniamo, sì, ed è stato nella nostra strategia di progettualità che abbiamo messo in campo sul piano territoriale, abbiamo una visione policentrica e chiaramente la valorizzazione delle aree interne. Questi castelli che fanno parte appunto di un presidio medievale presente nel nostro territorio, anche questi valorizzati rappresentano un grande valore artistico monumentale, e quindi per noi sono un punto di riferimento e vanno chiaramente valorizzati insieme ai comuni su cui sono presenti. Ma la crisi... Il risultato del bilancio sia più che positivo, perché abbiamo avuto grande riscontro di visitatori? Sì, di visitatori, ma devo dire è stata apprezzata molto la nostra posizione, che è stata appunto di assoluta e piena sobrietà in un momento di crisi, però la forza della capacità di presentare idee, progetti e iniziative che chiaramente valorizzano il territorio. Ecco, grazie Presidente Giovanni Avanti. Qualche altra cosa sulla BIT la chiederò al Vice Sindaco, l'Avvocato Roberto Corsello, che abbiamo il piacere di avere in studio, e quindi buona giornata a tutti. Grazie ancora, buona giornata e buon ritorno. C'era una domanda che è stata posta da Riccardo Gervasi a Ciccio Dolce, che riguardava, credo, da allora, da quando ti sei... se la puoi rifare questa domanda, Riccardo. Sì, la domanda la rifaccio. Cosa è rimasto dell'esperienza della candidatura di 5 anni fa come sindaco, e come vedi oggi il PDL? Giovanni, ti regalo. Ma la rivolgeremo anche all'avvocato Roberto Corsello, perché non abbiamo remore. E a me fa piacere che c'è lui comunque, perché la mia risposta poi credo che influirà anche nei suoi rapporti. Allora, no. Sempre per quello spirito che avevo detto poco fa. Una cosa sono i rapporti personali, un'altra cosa i rapporti politici. Noi con lui abbiamo avuto possibilmente scontri, ma ci siamo sempre salutati e rispettati. E voluti bene. Allora, cosa resta di quell'esperienza? Delusione, amarezza. Devo dire che giustamente rimane anche una ferita umana profonda, perché pensavo di non meritare quell'atteggiamento, che non è, diciamo, io che dovevo fare il candidato. So che in politica, come dicevamo poc'anzi, il candidato è l'equilibrio che si raggiunge in quel momento, quindi se non ero io sapevo che mi dovevo fare da parte. Tant'è vero che abbiamo detto sì prima di arrivare io, che poi fu una candidatura di servizio, a ben 6 personaggi durante la competizione elettorale, non uno. All'ultimo fu una candidatura di servizio per dire ci siamo stati 5 anni, vogliamo essere presenti anche in questa competizione elettorale. Non ce ne possiamo andare a casa dopo aver fatto un lavoro, secondo me, che era di grande impegno, di una forza politica allora che aveva quasi il 50% dei voti, che scomparisse totalmente dalla scena politica cefaludese, non era una cosa che allora alcuni abbiamo accettato. E ci siamo posti per dire qui c'è la nostra presenza, che è andata bene. E dice, come ti, io sono soddisfatto di quel risultato, perché avere preso 2000 voti, 1300 le liste e 2000 come candidato a sindaco, che significa 600 voti personali di più, un voto più, un voto meno, già era una soddisfazione. E fu una campagna elettorale contro tutti, quindi di quel risultato io rimango totalmente soddisfatto. Devo dire nello stesso tempo, per la chiarezza che mi contraddistingue, che mi aspettavo, e qui comincia l'errore del sindaco Guercia, mi dispiace dirlo, che non volevo parlare da nessuno, il sindaco Guercio, che sapeva benissimo prima dell'elezione, e qui c'è Roberto e me ne può dare atto, noi siamo arrivati anche fino all'ultimo a dirgli noi siamo disposti a sostenerti e venire e fare la nostra lista di appoggio a te. Sì, c'è stato il veto. Non capisco poi, dopo che è fallito la prima fase della sua esperienza politica, guarda caso i candidati che erano con me, che sono stati eletti con me, sono stati individuati personalmente per andare a fare l'assessore, per appoggiare con i consiglieri che c'erano, evidentemente la giunta Guercio. Io avrei preferito, lo dico con molta franchezza, proprio per quel rispetto che umano, politico c'è sempre stato, quel discorso veniva fatto allora come forza politica, ed è uno degli elementi che oggi si discute fra le forme politiche che si... Cioè quel gruppo che allora si era formato, credo che aveva tutto il dovere, prima che Roberto o un altro andasse a fare parte di quel appoggio al sindaco, di discutere, va bene, va male, andiamoci e comandarci. Questa è poi un'altra delusione che secondo me è normale. Ma comunque voglio concludere dicendo questo: io, siccome faccio politica ormai da vecchi tempi, non sono abituato a portare rancore, non ce l'ho con nessuno, non ho niente di rimproverare a nessuno, sono ritornato ad essere più normale di prima. Solo una cosa, e la sto acquistando, e per questo sto iniziando a fare, io per 5 anni sono stato fuori, assente, non sono intervenuto sul niente, perché in quell'occasione mi hanno tolto la cosa più importante che era nel mio carattere, la bellezza più, a quella che tenevo di più, che era quella che davo fiducia a prescindere a tutti. Da quel momento quella bellezza che mi sentivo dentro mi è stata tolta, perché ho cominciato a dubitare di tutti. Ora l'ha ritrovata e sono qui per questo, altrimenti sì, non avrei ripreso a fare politica. Prima che interviene l'avvocato Roberto Corsello, consentitemi di salutare l'avvocato Pino Agostaro, che ora è in pensione, però alterna la sua attività di avvocato con quella di poeta, e che ha tirato fuori, tra poco tirerà fuori un altro libro e ce ne anticiperà più tardi qualche poesia. Grazie Pino Agostaro. E intanto è in linea da Milano Giusi Farinella, credo? Sì, pronto Giusi? Sì, Mario. Ciao, che tempo c'è oggi a Milano? A Milano la temperatura è buona, 10 gradi ci sono sicuramente. Ah, abbiamo portato un po' di sole anche a Milano, perché a Milano c'è più caldo che a Cefalù, Senti, tu hai in mano un po' la situazione per quanto riguarda il turismo, cioè hai seguito questa branca alla BIT di Milano. Ecco, che prospettive ci sono per il prossimo anno, Giusi? Allora, la zona Cefalù, perché loro distinguono zona Taormina da zona Cefalù, la zona Cefalù sul mercato tedesco, belga dell'est è in grande crescita, si prevede un aumento del 70%, quindi un incremento enorme. Mentre Taormina non ha lo stesso incremento nostro, la zona Taormina, mentre c'è la Francia che non va benissimo, ma hanno problemi loro come noi italiani, economici, soldini non ne hanno nemmeno loro. Quindi la crisi si fa sentire per la Francia, diciamo. No, per la Francia, soltanto per la Francia. Mentre in Germania abbiamo un incremento su Cefalù del 100%. Quindi il prossimo anno saranno il numero uno, le più presenti saranno tedesche. Ma su Belgio abbiamo un incremento del 60%, sull'est abbiamo un incremento del 40-50%. Il mercato francese e quello italiano sono quelli che stentano a partire ancora. Ah, ecco. Comunque Cefalù il prossimo anno incrementerà le presenze, sicuramente. Ah, quindi questo è un fatto positivo, è un'iniezione di speranza, di fiducia nel turismo del prossimo anno, perché se dovessero aumentare diciamo le presenze è un fatto altamente positivo. Certamente. Certo. Per ora, diciamo, la tendenza è di crescita enorme verso il centro, proprio grande, ma da tanti anni che non succedeva una crescita del genere. Ecco, ti salutiamo con questa iniezione di fiducia. Grazie, Giusi, per il tuo intervento. Ciao. Ecco, credo che la regia ci chiede, Angelo Arduino ci chiede di fare una breve pausa, cosa che facciamo? Pubblicità. A Cefalù, al numero 66 di via Mandralisca, Caffè 66, food, drink e... Nel centro storico di Cefalù, vicino al Duomo, un locale per tutti. Atmosfera calda, accogliente e amichevole. Pub Caffè 66, food, drink, creperia, panineria, bruschetteria, wine bar, birreria, insalate e piatti tipici. Lo trovate anche in internet su www.caffè66.altervista.org. Caffè 66, al numero 66 di via Mandralisca, di fronte il museo. Che convenienza trovi da Art, insieme a tanta scelta e qualità. E fino al 26 febbraio super offerte con i nostri marchi di convenienza. Latte parzialmente scremato Optimo da un litro 50 centesimi. Bicchieri acqua ogni D 100 pezzi 59 centesimi. Acqua naturale Sorsi da 2 litri per 6 96 centesimi. Hard discount in Sicilia e Calabria. La spesa per tutti, di tutto e di più. Per la tua spesa c'è solo Hard. Mangiare sano ti aiuta ad affrontare meglio lo stress della vita quotidiana. Rivolgiti con fiducia alla macelleria Arcangelo Cipriano. Sulla tua tavola carni fresche, genuine, certificate provenienti da allevamenti locali. Vitello, agnello, carni bianche, capretti e polli. E se non hai tempo, macelleria Arcangelo Cipriano ti viene in aiuto proponendoti tanti preparati di vario genere. Macelleria Arcangelo Cipriano, via Umberto I 52 a Cefalù. Telefono 0921 42 10 99. Hobby Garden, piante ornamentali, piante da frutto e da orto, attrezzature agricole, hobbistica per giardinaggio, giochi d'acqua e accessori, programmatori e raccorderia per irrigazione, terrici universali, sementi per tappeti erbosi. Hobby Garden di Cova Salvatore, via Montessori, cortile 3, contrada Pacenzia. Telefono 0921 92 17 51 a Cefalù. Hobby Garden vi ricorda i vivai Cova a Campo Felice di Roccella. Manutenzione di parchi, giardini, residence, prati. Contrada Pista Vecchia, strada statale 113, Campo Felice di Roccella. Telefono 0921 428 927. Vivai Cova, di Fabio Cova. La convenienza di acquistare da chi produce. In questo periodo offerte eccezionali. Motosega alpina da potatura 180 euro. Piante da frutto, ulivi e agrumi di prima scelta 5 euro. Tre ciclamini con vasi in coccio 10 euro. Ricordate, tutto da Hobby Garden e Vivai Cova. Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno, adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili. Da Mineo Gioielli, le più preziose idee regalo proposte con professionalità ed eleganza, perché un gioiello è testimone di momenti memorabili. Mineo Gioielli, la preziosa artigianalità e l'eleganza di collezioni esclusive che fondono il freddo dei gioielli con il calore di sentimenti irripetibili. Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3, telefono 091 962 313 a Bagheria. Una tradizione che si trasmette nel tempo. Arredamenti curati e confortevoli, studiati in ogni dettaglio. Dal prodotto concepito per le esigenze di tutti a quello più esclusivo per soddisfare bisogni e desideri di ognuno. Arredi Madonia, mobili classici e moderni. Un vasto showroom con esposizione di 25 modelli cucine Lube, dove potrete toccare con mano la qualità di cucine innovative che propongono soluzioni per ogni tipo di spazio e per ogni esigenza. Madonia Vincenzo e Figlio, una grande realtà sempre legata al territorio, che propone mobili fatti di materiali importanti e resistenti, sinonimo di qualità e al miglior prezzo. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro Dono. Mettiamo al servizio dei nostri clienti oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Telefono 0921 67 67 31. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. E riprendiamo qua e là tra una novità e l'altra. Vi dicevo che in studio abbiamo anche Fabio Coco, ne approfittiamo per chiedergli qualcosa della Proloco. Lui è stato presidente della Proloco fino a qualche settimana addietro, poi ha rassegnato le dimissioni. Perché Fabio questa dimissione? Avevate un po' cercato di dare l'avvio a questa a questa Proloco. Per Cefalù è importante, perché di fatto però c'è il distretto turistico, l'azienda di turismo è quasi ferma, non ha neanche i poster o i dépliants, è veramente una cosa paradossale. Certo, una Proloco potrebbe essere utile a Cefalù. Sì, intanto buongiorno a tutti i radioascoltatori. Certo, tanti ricorderanno il fatto che la Proloco sia nata sotto una cattiva luce. Mi riferisco alla polemica sulla politicizzazione, o meglio partitizzazione, che ha allontanato tante energie positive cefaludesi. Quindi questa Proloco sì, ha lavorato, però personalmente mi aspettavo un colpo di reni da parte di tutta la cittadinanza per fare decollare questa associazione. Dunque, questa polemica ha fatto scaturire una scelta mia e di un altro consigliere, mi riferisco a Lillo Serio, scelta di tipo etica, per allontanare ed evitare eventuali confusioni che si possono generare in questo momento politico. Mi riferisco al fatto che sia io che Lillo Serio, insieme a Salvo Mangano e tanti altri amici, siamo stati i fondatori del movimento Urbe Città Nuova. Quindi non volevo assolutamente far ripiombare questa associazione in quella polemica sterile, se vogliamo, che riguardava appunto la partitizzazione dell'associazione. Mi pare giusto, una scelta giusta che ti rende onore in un certo. Grazie. Quindi, anche se personalmente non lo condivido, perché se partiamo da questo punto di vista che io nell'associazione non posso fare politica, eccetera, eccetera, la facciamo fare solo agli avvocati, ai dottori, e buonanotte, perché no? L'associazione, la partecipazione all'associazione anche può essere una ricchezza per fare pure politica. Sai, una Proloco deve vivere al di là della politica, al di là delle cose, perché non, se ci mettiamo la politica dentro, così l'assessore regionale decolla, cominciano le lotte, finisce come un consiglio comunale, né più né meno. Certo, e infatti. Quindi diventa un problema. Io ci sono stato 3 anni all'azienda di turismo e ho lavorato lì, facevo di tutto, quindi so che quando c'entra la politica o i partiti politici crolla o si distrugge una Proloco. Certo, infatti se la propria voglia di impegnarsi in politica deve essere un limite per l'associazione, preferisco, come ho preferito, farmi da parte, diciamo dare largo ad altre energie che sicuramente ci sono, energie positive. Ricordo per esempio il segretario Maria Rosa Cipriano, che è stata quella che mi ha dato un supporto non indifferente all'interno di quel direttivo, come lei, come tanti altri, Rosalia, Giovanni e Laura. Sicuramente, certo. Ecco, avvocato Roberto Corsello. Vorrei dire la mia, perché io condivido quanto ha detto Fabio Coco, cioè che la Proloco debba avere una sorta di ruolo istituzionale super partes e che quindi debba rimanere fuori dalle logiche, però Cicco Dolce accennava un punto che secondo me è un po' la vera questione, cioè si è data l'impressione che la politica sia necessariamente un fatto negativo, un fatto da allontanare, un fatto per traffichini. Beh, non è così. La politica, almeno per come la intendo io, è frutto di confronto. Purtroppo il confronto non c'è più. Si è trasformato il confronto in scontro, si è trasformato l'interlocutore politico in nemico. Ma questo è un problema di una degenerazione dei soggetti impreparati che oggi si affacciano al mondo della politica e che non hanno compreso qual è invece il vero ruolo dello scambiarsi, del confrontarsi sulle idee. L'errore grande, e mi dispiace questo doverlo dire, è la scomparsa dei partiti. Io che da giovane, come Cicco Dolce e come qualche altro qui dentro, si vanta di aver fatto politica nella Prima Repubblica, nella tanto vituperata Prima Repubblica, ma dove i partiti erano una cosa seria. Certo, poi taluni uomini, taluni criminali hanno finito per svuotare la politica e i partiti di quello che di nobile c'era, trasformandoli in comitati d'affari e in fatti criminali, ma i partiti in sé, come concetto, come aggregazione umana, come espressione democratica degli aggregati umani, sono un fatto estremamente positivo. Esattamente, intermedio tra Parlamento e cittadini. Esattamente, svolgevano una funzione che oggi non svolgono più, che era assolutamente fondamentale, perché svolgevano la funzione di assicurare il dibattito di base e la formazione della classe dirigente. Oggi che i partiti non ci sono PD, più, si può dire che non ci sono. Oggi che i partiti di fatto non ci sono più, questa funzione non viene svolta da nessuno e vi sono gli avventurieri che si cimentano in politica e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. I partiti sono acquistati. Avvocato Roberto Corsello, non so se dovesse deve aggiungere qualcosa, prego. Sì, desideravo chiarire un ultimo aspetto perché mi fa piacere sottolinearlo e poi volevo fare anche un ultimo saluto lì a Milano. La Proloco deve fare politica, ma non deve essere partitica. E allora, politica da polis significa città, per la città, ecco, perfetto. Pars si riferisce ad una piccola parte della città, quindi la Proloco deve fare politica ma non essere partitica, perché la politica è la giusta conduzione della città, quindi l'indirizzo per il cittadino. Chiaramente se il presidente poi si schiera in un partito, chiamiamolo così, o in un movimento, quindi che rappresenta una piccola parte della cittadinanza, è giusto che si faccia da parte, come io e Lillo Seri abbiamo fatto. Perfettamente d'accordo, Fabio. Volevo chiudere soltanto con i saluti allo stand di Cefalù a Milano, dove abbiamo partecipato. Totò Marsala, sì, dove c'è Totò Marsala, sì. E io in qualità in studio la settimana scorsa. In qualità di presidente uscente, insieme a Lillo, che è sempre uscente, e Maria Rosa Cipriano, siamo stati sul giorno dell'inaugurazione per portare intanto il nostro saluto e poi il calendario che la Proloco ha realizzato, e abbiamo quindi distribuito tra gli operatori che si sono avvicendati allo stand di Marsala quello che era il gadget che la Proloco ha portato. Un saluto a tutti. Ecco, avvocato Corsello, tu hai partecipato un po' alla BIT di Milano, ecco, che bilancio puoi fare di questa della BIT? Io intanto, a margine di quello che ha detto Fabio Coco, devo dire che il ringraziamento va certamente a Marsala, a Totò Marsala, all'edizione di Marsala, per lo sforzo organizzativo fatto nel assicurare la presenza di Cefalù alla BIT. Va alla Proloco di Cefalù, che appunto, come diceva Fabio, si è impegnata concretamente nella realizzazione dello stand, ma va anche alla Proloco di Sant'Ambrogio, che è del pari ha ricordato con eguale impegno alla realizzazione di questa importante presenza. Importante presenza che, al di là di quello che sono poi i dati che concretamente si commercializzano, la presenza alla BIT è una vetrina. Quindi Cefalù, al di là di quelle che possono essere i problemi che noi abbiamo, che riscontriamo ogni giorno, è importante esserci per assicurare uno spazio vitale ai tanti operatori, e credetemi, io ne ho incontrato tantissimi operatori di Cefalù che facevano incontri, confronti e affari alla BIT, ma anche per assicurare una presenza istituzionale alla nostra città. Devo dire che la regione siciliana, per il secondo anno consecutivo, operando una scelta secondo me errata, ha deciso di non partecipare, l'unica regione d'Italia a non avere un proprio stand alla BIT, e parliamo della Sicilia, cioè una cosa veramente incredibile e incomprensibile. Per fortuna l'Unione Regionale delle Province Siciliane, di cui Giovanni Avanti, che abbiamo appena sentito, è il presidente regionale, ha supplito a questa carenza della Regione Sicilia, realizzando uno spazio Sicilia finanziato dalle province, quindi sono le 9 province siciliane che gestiscono questo spazio, e che mettono a disposizione di tutti gli operatori siciliani questa vasta area delle province siciliane. E accanto alle province siciliane c'era Cefalù, che secondo me è un fatto importante, perché stigmatizzava una presenza, credetemi, lo stand peraltro allietato alle fotografie di Turdo, tutte molto belle, era uno stand molto frequentato, molto visitato, a conferma del fatto che Cefalù, nonostante tutto e tutti, ancora oggi tira. Roberto, poco fa c'è stata una battuta sulle partite, sulle cose. Tu hai scritto una lettera a Nasca, dicendo che ti sento un corpo estraneo. Come è questa estraneità? Insomma, facci capire qualcosa in più. Sì, io mi sono autosospeso dal PDL e mi riallaccio anche a quello che diceva Cicco Dolce poc'anzi nel suo intervento. I partiti di fatto non funzionano. E il PDL, è inutile girarci attorno, non vive una realtà migliore. L'assenza di un funzionamento del partito ha prodotto una serie di equivoci, una serie di fraintendimenti, una serie di occupazioni di spazi che istituzionalmente andavano garantiti a tutti da parte di pochi, con la pretesa di affrontare e assumere delle scelte che appunto dovevano essere condivise, e che invece pochi, o forse addirittura pochissimi, ritenevano di dover imporre a tutti gli altri. Io, prima ancora di condividere il merito delle scelte, ho ritenuto di non condividere il merito, e quindi, sentendomi un estraneo rispetto agli altri amici che appunto continuavano a dettare le regole, e soprattutto sulla base di talune prese di posizione che non ho condiviso, ritengo legittimamente assunto la decisione di dire scusatemi, ma io non ci sto più. E questo non significa essere con Guercio, essere contro Sgarbi, perché per carità, è fondamentale. Beh, Sgarbi credo che sia fuori gioco, non lo so, non credo che almeno non è questo il problema è il metodo. Poi si può arrivare a condividere qualunque scelta, ma bisogna confrontarsi sul merito delle ipotesi sul tavolo, e siccome non c'era neanche il confronto, ma c'erano delle prese di posizione preconcette animate e dettate solo da pregiudizi, che sono stati quelli che hanno dettato, e Cicco Dolce lo ricordava, 5 anni fa, quando noi a un certo punto avevamo detto siamo fuori, cerchiamo di fare un ragionamento di riunione del centrodestra, questi stessi pregiudizi nei confronti di taluni soggetti hanno fatto sì che un individuo che riteneva di essere il regista della compagine Guercio disse no, con questi discutiamo, non ci discutiamo nemmeno. Ecco, questi metodi assolutamente incomprensibili e non condivisibili, io non li condividevo 5 anni fa, non li condivido neanche ora, e quindi ho tratto le logiche conclusioni. Volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Cicco Dolce. È vero, il partito non ha funzionato, e non ha funzionato neanche quando noi 2 anni e mezzo fa abbiamo scelto di rispondere all'appello del sindaco Guercio, che ha dichiarato chiuso quel progetto politico che nel 2007 lo aveva portato a vincere l'elezione ed assumere la guida della città. E noi, io ero consigliere comunale insieme ad altri consiglieri comunali, ma con la condivisione del partito, abbiamo deciso di prendere atto del riconoscimento politico del sindaco, del superamento di quel progetto politico e dell'appello che il sindaco rivolgeva a tutte le forze politiche della città, e l'abbiamo fatto pubblicamente dicendo benissimo, noi siamo pronti ad aiutarti ad amministrare questa città per questi residui 2 anni e mezzo sulla base di una piattaforma programmatica che in quel momento venne condivisa e venne elaborata. Io credo che questa scelta, condivisibile o meno, comunque sia stata una scelta pubblica, lineare, svolta sotto la luce del sole e non una scelta carbonara che qualcuno oggi magari rinnega perché non ha condiviso, ma la verità è verità, e la verità è questa, e la verità è questa, e volerla oggi celare sarebbe scorretto. Certo, è legittimo che questa scelta possa non essere condivisa, è legittimo dire questa scelta non è in linea con quello che noi abbiamo fatto 5 anni fa, ma perché l'avete fatta? E a questa legittima domanda io rispondo: l'abbiamo fatta perché al dicembre del 2009 il nostro partito, anzi il PDL, non era pronto ad affrontare una campagna elettorale. Questa è la realtà dei fatti, e voler nascondere questa realtà è scorretto. Ma oggi siete pronti? No, oggi non è pronto, ma purtroppo oggi le elezioni sono inevitabili. Questa è la situazione. La democrazia è questa. Quindi, per un attimo, perché abbiamo in linea Francesco Calabrese. Veloce. La soddisfazione di prendere atto che la scelta di appoggiare il sindaco Guercio è una scelta di partito del PDL, che in quel momento noi non c'eravamo più, io personalmente non c'ero più, e quindi è una scelta, dico, del PDL. Quello che dicevo poc'anzi io, Roberto Corsello, il dottore Scialab, Franco Sideli, Brocato non era con noi, questi tre nel 2009, sì, aspetta, questi tre non erano state elette nel PDL, ma erano state elette con una lista capeggiata dal sottoscritto. Sì. Prendo atto ancora una volta che, malgrado questo, il PDL ha fatto una scelta politica senza tenere conto di un candidato a sindaco e della lista dei candidati che ha fatto eleggere i 3 consiglieri. Ecco. Ecco, grazie, ma credo che abbiamo in linea doverosa, credo, l'avvocato, no? Francesco Calabrese. Ecco, questo è sicuramente candidato a sindaco perché è stato designato dall'UDC quando Casini è stato al Costa Verde. Pronto Francesco? Sì, Mario, buongiorno. Ah, buongiorno a te. Intanto siete tre, intanto i sicuri. Poi ci sono tanti altri nomi che ruotano. Salvatore Mangano, ne abbiamo uno qua. Ce ne sono tanti, si parlava pure di Mario Cicero, ma non lo so, devono avere ognuno cerca di avere un supporto per poter portarsi, perché altrimenti è chiaro che senza supporto, io sono convinto che se ce ne sono di più è meglio, almeno il cittadino può avere ampia scelta e soprattutto in chi ha più fiducia, in chi ritiene di riporre che abbia le maggiori capacità. Francesco, come mai, ecco, questa tua discesa in campo, come è avvenuta? Intanto buongiorno Mario a te, ai tuoi ospiti e a tutti i radioascoltatori. Devo dire che il progetto che ha condotto al primo passo, perché evidentemente non è un punto d'arrivo ma è diciamo un inizio, una partenza, è un passo che è stato maturato nel corso di un lungo periodo, dico da almeno 8 mesi. Il nostro intento era quello di andare a recuperare proprio quella parte del centro della politica cefaludese che si era arenata nel 2007 con la disfatta, in buona sostanza, e del progetto del dottore Guercio e in buona parte anche del progetto UDC, tra virgolette. Ragione per cui abbiamo dato questa nuova linfa di rinnovamento al partito, avendo un direttivo che è ufficializzato e sigillato da tutti gli vertici provinciali e regionali dell'UDC, e democraticamente all'interno di questo gruppo si è lavorato, ripeto, da quasi un anno per condurre appunto alla candidatura di una persona che rappresentasse in qualche modo ricordo, una sorta di svecchiamento rispetto al vecchio modo di fare politica, e questo svecchiamento ha condotto, diciamo, alla mia candidatura che, come dicevi poc'anzi, è stata battezzata, per così dire, dai vertici provinciali e regionali del partito, anche alla presenza dell'onorevole Cesa, che è il segretario dell'UDC. Sappiamo benissimo che questa sarà una tornata elettorale molto importante per la nostra città, per i nostri cefaludesi. Il nostro percorso vuole essere un percorso di verità e di chiarezza. Ho sentito qualche passaggio del vice sindaco Roberto Corsello in merito alla situazione politica che ha dato vita al sostegno del PDL alla sindacatura Guercio, e quindi al programma in qualche modo portato, a programma amministrativo in questo caso, non politico, portato avanti dalla giunta Guercio. Quindi apprendo, mi pare che era questo il senso delle parole del vice sindaco, che giustamente o ingiustamente o a torto il PDL ha sostenuto la candidatura Guercio. Non c'è dubbio che Roberto Corsello è stato uno degli esponenti di punta del partito di Berlusconi, ragione per cui non c'è soltanto Roberto Corsello, ma ci sono anche due consiglieri comunali, e sono Francesco, Mauro Scialabba e Franco Sideli. Quindi Roberto Corsello con molta chiarezza ha detto che evidentemente stava un po' stretto in questo partito, alle sue motivazioni, però il dato politico di fondo è questo, cioè mentre qualcuno vorrebbe celare che il PDL non ha sostenuto questo, chiamiamolo, nuovo progetto del dottore Guercio, che nasce al momento della sfiducia del 2009, Roberto Corsello con molta franchezza ha detto invece che il PDL è stato a sostegno proprio di questo nuovo progetto. Poi gli elettori sapranno trarre le conclusioni in relazione a ciò che è stato fatto, ciò che poteva essere fatto e invece non è stato fatto. Tutto qua. Ecco, senti Francesco, uno degli argomenti che abbiamo trattato oggi in studio con Stefano, con Salvatore Mangano, con Ciccio Dolce, con Roberto Corsello, con Riccardo Gervasi, ma anche con Fabio Coco, è stato lo scollamento dei cittadini dalla politica, come avviene in campo nazionale, così avviene in campo locale. A Cefalù addirittura c'è stata una rotazione di assessori, 25 in 5 anni, un primato veramente. I consiglieri sono stati senza punto di riferimento dei partiti, tranne il PD e qualche altro, ma in linea di massima non c'è stato riferimento nei partiti. Si è passata dalla maggioranza all'opposizione e viceversa. E diciamo, non è il caso di vincolare un po' i candidati nel momento in cui si portano per una lista, per un partito, che se cambiano lista se dovrebbero quantomeno rassegnare le dimissioni? Tu che pensi? Sono d'accordissimo, Mario, anche perché l'hai tu accennato nella domanda che mi stavi ponendo, cioè il problema della frammentarietà del panorama politico purtroppo non è soltanto un problema cefaludese, è un problema che abbraccia un po' tutta la nostra nazione. Non dimentichiamoci che sebbene ancora qualcuno si ostini a sostenerlo, è sostanzialmente definitivamente morto il cosiddetto bipolarismo, ragione per cui ogni partito si sta riorganizzando, e proprio l'assenza dei partiti, dicevi bene tu Mario, ha determinato di fatto una presenza in consiglio comunale quasi autonoma, vorrei dire, senza quella partecipazione democratica, quella discussione anche all'interno dei partiti, che fa vivere il partito stesso e fa crescere anche le nuove generazioni. Quindi penso che puntare sui partiti piuttosto che sui movimenti penso che sia molto importante, perché lo scollamento tra cittadini e politiche, partiti soprattutto, deriva proprio da questo, cioè i partiti visti lontani dalla gente, perché la gente non si sente partecipe della vita del partito. Tra l'altro i partiti sono delle formazioni costituzionalmente organizzate e garantite, ragione per cui ogni partecipazione democratica deve necessariamente passare attraverso i partiti. Noi abbiamo proposto, e l'ho detto il nostro coordinatore Innocenzo Iacono, che i candidati al Consiglio Comunale nella lista dell'UDC dovranno sottoscrivere una sorta di contratto politico in forza del quale si impegnano a mantenere la posizione che assumono nel momento in cui decidono di candidarsi, e qualora dovessero discostarsi da questa posizione evidentemente stabiliremo delle sanzioni che potranno arrivare persino alla sospensione dal partito. Questo per dare ancora una volta chiarezza. Poi, se mi consenti Mario, lo scollamento della politica a mio avviso passa attraverso tutta una serie di protagonismi, parlo della politica nazionale ma anche locale, che hanno allontanato i cittadini dalla politica, perché la politica non si è occupata dei problemi della gente. Oggi occorre che la politica si occupi della persona, occorre avere come punto di riferimento la persona e il territorio. Siamo a Cefalù, la politica cefaludese deve occuparsi dei cefaludesi e del territorio cefaludese. Tutti gli altri discorsi demagogici purtroppo hanno evidentemente frantumato quel rapporto che per decenni si era costruito tra cittadino e istituzioni. Ebbene, i giovani, i meno giovani, ma con idee giovani, hanno un ingrato compito, quello di andare a ricostruire, a rinsaldare questo legame tra cittadinanza e partiti politici che fanno da trade union tra il cittadino stesso e le istituzioni. Quindi oggi secondo me proprio a Cefalù bisogna parlare con molta franchezza, con molta chiarezza, spiegare ai cittadini la situazione in cui si trova Cefalù e cercare tutti assieme di cambiare rotta. Sarà difficile, però il primo passo è quello di dire la verità ai nostri cittadini. Va bene Francesco, grazie della tua partecipazione, buona domenica. Credo che Riccardo Gervasi ti avesse fatto qualche domanda. No. E allora una cosa, ecco, una delle cose, ieri parlavo con un nostro comune collega, l'avvocato Agostino Terregino, il quale mi diceva: se ci fossero i regolamenti comunali più chiari, possibilmente si eviterebbero tanti contenziosi e molti che non pagano oggi la TARSU o qualche altra cosa sarebbero costretti a pagarle, a farle. Tu pensi che si possano rendere più agevole, più chiari questi regolamenti comunali per evitare contenziose? Io penso che si devono rendere più agevoli, più chiari e più aggiornati. Molti regolamenti sono arretrati, a volte il Regino ha detto una cosa, come nel suo stile, saggia e corretta, ma insomma non è una novità chi lo conosce, ed è obiettivamente così. So anche, posso anche dirti, che l'ufficio tributi ha già ricevuto precise disposizioni in tal senso, sta procedendo ad adeguare le varie tariffe. Cito per esempio una cosa che è molto attuale, che riguarda per esempio i lidi. Non esiste nella tabella una voce specifica per i lidi, ciononostante l'ufficio tributi ha dovuto procedere alla iscrizione al ruolo, all'elaborazione di tutta una serie di accertamenti per i lidi, agendo per analogia. Evidentemente questo è ai limiti della correttezza, nel contempo si sta provvedendo al riaggiornamento della tabella, inserendo una voce specifica e anche una tassazione adeguata, perché evidentemente i lidi hanno una stagionalità particolare, hanno una produzione di rifiuti particolare, ma che non può essere assimilata a null'altro. Hanno bisogno di una loro tipologia e in una stazione balneare come Cefalù hanno bisogno anche di un'attenzione particolare. Grazie Roberto, ma credo che Riccardo Gervasi volesse rivolgerti qualche domanda. Dunque, da consigliere di opposizione sei diventato vice sindaco. E mi pare che poco fa hai detto che la scelta che ti ha portato ad appoggiare il sindaco Guercio si è dipesa anche dal fatto che non avete sfiduciato, così come avevate detto, il sindaco quando era da sfiduciare, quando gli altri avevano presentato la mozione, quando il PD aveva presentato la mozione, e anche in considerazione del fatto che il PDL non era pronto per la campagna elettorale. Si è divenuto vice sindaco e, stando a sentire quello che ha detto in conferenza stampa il sindaco inizio d'anno da CRM, si è divenuto quasi l'uomo della provvidenza per il sindaco, tanto che il sindaco ha detto che non rinuncia a te neanche alle prossime elezioni, e se dovesse essere rieletto tiene molto a te. dopo un po' di tempo giunge la tua lettera di autosospensione. Non pensi che possa sorgere un dubbio legittimo, e cioè che questa lettera di dimissioni, di autosospensione, chiamiamola come vogliamo, sia legata anche alle dichiarazioni fatte dal sindaco, cioè il fatto che il sindaco ha detto non rinuncio a Roberto Corsello. Roberto Corsello sì, è un mio uomo. A Natale, quando l'abbiamo intervistato. Esatto. Dico, non credo che questo fatto possa avere creato un problema tuo all'interno del partito. È una domanda, e ne pongo a questo punto un'altra. E ora che ti sei autosospeso, cosa farai all'imminente campagna elettorale? Allora, rispondo alla prima con un sì netto, cioè... brevemente Roberto, sì, così sì, facciamo sì, parlare anche sì, Salvatore sì. Sarò conciso. Sì, la risposta, ripeto, alla prima domanda è certamente sì, ritengo che il dubbio sia legittimo, il merito invece è assolutamente destituito di fondamento, nel senso che non vi è un fil rouge che lega tutti questi eventi. Condivido con Riccardo che probabilmente il fatto che il sindaco ha detto non mi ha definito uomo della provvidenza, francamente nel mio curriculum mi mancava questa cosa però ha detto che se non, io ho ascoltato la coda della trasmissione alla radio quando lui ha parlato di questo, ha detto che riteneva che io sarei stato con lui nella prossima campagna elettorale. Io non so se sarò candidato, francamente sono molto stanco e veramente non ho ancora deciso. La mia decisione di autosospendermi dal partito nasce da quello che ho detto, però l'analisi che fa Riccardo Gervasi è suggestiva e interessante, e probabilmente queste parole potrebbero aver acceso in qualcuno che magari aveva ambizioni assolutamente legittime e lecite diverse, che magari non gradiva più la mia presenza in una compagine amministrativa. Queste parole potrebbero aver provocato una sorta di voglia di scatenare un attacco, ma sai, queste poi sono dinamiche interne ai partiti, sono fatti assolutamente naturali, fatti a cui peraltro io sono molto abituato, e tuttavia io ho ritenuto di dovermi sospendere dal partito perché ritenevo che fosse corretto questo, cioè prendere atto di una situazione di non condivisione di criteri, scelte e percorsi da seguire insieme a quelli che fino a ieri sono stati i miei compagni di partito, e quindi non avevo altra scelta e ho ritenuto doverosamente di doverlo fare. Cosa farò domani? Non lo so ancora. Io ritengo di essere politicamente e ideologicamente ancora all'interno del PDL, ripeto, pur non condividendo le scelte della direzione del partito nella mia città, vedremo cosa succederà. Prima o poi si dovrà celebrare un congresso cittadino, lì ci confronteremo, celebreremo quelle che saranno lo svolgimento e le regole democratiche, e poi ognuno prenderà la sua parte. Il mio problema è che ancora oggi la democrazia all'interno del PDL non è stata rispettata, c'è stata soltanto la volontà di imporre a tutti scelte di pochissime, e questo a me non sta bene. Quando saranno ripristinate le regole, quindi quando ci si potrà confrontare sui metodi e sulle idee, allora ne ripartiremo. Chiarissimo Roberto, prima di sentire l'amico avvocato Pino Agostare, vorrei concludere con Salvatore Mangano e Ciccio Dolce, e intanto per tante cose, con una domanda conclusiva, perché tante cose a Cefalù non vanno. Il lungomare è degradato, porto e campo sportivo sono entrambi inagibili, i bidoni colmi, la piscina coperta inesistente, pur essendoci stato un finanziamento di 850.000 euro, che non basta neanche per le fondazioni, che non basta, artigianato, pesca, agricoltura vanno a scatafasci, non c'è niente, qualche cosa sulla gastronomia, ma non so, restano soltanto i sogni. Voi come vedete, Salvatore Mangano, mi puoi dire, vabbè, ma io non ho neanche amministrato Cefalù, e quindi so com'è, quindi, così come Ciccio Dolce, non ci siamo stati noi, quindi è una cosa che ci proponiamo nel futuro, ma voi come vedete il futuro di Cefalù? Ecco, io veramente se si continua su questo passo lo vedo un po' nero. Prego. Allora, io per mia natura sono un ottimista, quindi dico, se sono qui e soprattutto come gruppo vogliamo impegnarci è perché vogliamo dare il nostro contributo. Sul discorso cosa faresti cosa faresti tu sostanzialmente, oltre al concetto che ribadivo in apertura, ovvero sanare questo rapporto tra cittadinanza e istituzione affinché si possa sposare un progetto comune. Secondo me la serietà di un progetto si sposa anche dal come viene declinato il programma elettorale. Mi riallaccio al dibattito online che c'è stato su Cefalù News e a una risposta che ho dato in merito all'impostazione sulla numerosità delle deleghe assessoriali che sono state date. Secondo me il problema non sta nel numero, quanto nella modalità. Secondo me bisogna fare intanto razionalizzazione delle deleghe e soprattutto per ognuna di queste dare degli obiettivi e dei tempi certi che possono essere poi dal sindaco alla coalizione in una maniera concordata e come se fosse un'azienda di fatto. Secondo me il ruolo principale che secondo me manca e che dovrebbe essersi riaffermato alla politica e alla governance, un po' come l'azienda privata, naturalmente mentre l'azienda privata ha un business legato al profitto, il comune, l'ente pubblico ha delle finalità diverse che sono anche il benessere del cittadino, non dimenticando che anche le aziende private, specialmente di una certa dimensione, io vengo da una formazione da una multinazionale americana, l'attenzione al capitale umano e quindi come risorsa, basandosi su dei valori fondamentali, non sono in secondo piano rispetto a business, perché di fatto sono delle realtà correlate e secondo me in un ente pubblico questo legame è ancora più forte, ancora proprio statutario, ecco. Certo, grazie Salvatore. Ciccio Dolce, ecco a te le conclusioni. Devo dire per l'età le conclusioni, perché molta esperienza, molta cosa. Però se facciamo il conto dei minuti, penso che tu e qualche altro ci supereremo. Concentemi una battuta. Come un'altra battuta mi permetto di fare. 5 anni fa non mi è stato detto che per essere candidato ci voleva uno spessore politico, non so, di possanza fisica, non lo so, perché come esperienza di amministratore avevo 30 anni svolti in ogni luogo, dall'ospedale alla provincia, sindaco a polizia, vice sindaco a Cefalù, comunque ci voleva uno spessore. Non ho capito di che cosa si... Però è stato utile chi ha detto queste cose, perché mi ha spinto in questo periodo di vacanza politica, perché mi sono rilassato, ho avuto modo di godermi le mie nipotine in modo spettacolare, siamo tutt'uno con loro e quindi sono gioie che non si possono descrivere. Ti sei goduto la vita. Non ho goduto la vita, ma ho fatto un'altra cosa di particolare. È da 5 anni che studio ragioneria, tanto è vero che quest'anno vado a fare gli esami di maturità. Non posso avere la preparazione, perché rispondo alla domanda, non posso avere la preparazione dell'ingegnere Mangolo, ma alcuni concetti ce l'ho chiari. Cioè, qualsiasi azienda, prima di avviare un'attività, ingegnere, se sbaglio mi corregge, perché ancora quello spessore non è arrivato all'ingegnere, però qualsiasi azienda che inizia, lavora o è in vita, deve fare dei business plan, deve vedere prima nell'anno cosa intende fare a medio e a lungo periodo. Queste sono le basi fondamentali, deve procurare le somme, il personale, i macchinari, tutto quello che occorre. Qui secondo me partiamo da una situazione che è grave dal punto di vista economico, dal punto di vista, tu hai accennato a diversi problemi da risolvere, e allora la prima cosa che bisogna fare è questa programmazione che riguarda principalmente non tanto i problemi da risolvere, ma la stabilità di un'amministrazione. Perché se facciamo il conto di questi 5 anni, amministrazione se ne sono succedute, cioè con fare i programmi, perché il progetto di questa amministrazione era un progetto che vedeva Giovanni Cristina, Gino Crisafi, il sindaco, che avevano un loro progetto. Poi salta Giovanni Cristina, salta Giovanni Cristina, quindi quella stabilità progettuale, quell'intendimento di amministrare la città in determinato modo è caduta. Allora quello che dobbiamo prefiggerci tutti, e per questo bisogna trovare la massima unità secondo me, è il fatto che in questa consiliatura che si andrà a formare la prima cosa importante per risolvere i problemi sono idee chiare, uomini e stabilità. E quindi questo è importante, sono delle cose importantissime sulle quali tu hai messo un po' il dito sulla piaga di tante cose che in realtà si potrebbero risolvere, ma si devono risolvere ovviamente mettendoci tutto se stesso. E non bastano i programmi, si tratta di mettere a fuoco poi questi programmi e di realizzarli, perché è importante questo. Se io cambio ogni 6 mesi, ricomincio da capo, non posso mai realizzarlo un problema. E poi per amministrare, parliamoci in termini chiari, qua c'è Roberto e lo sa, in un comune come Cefalù, se non stai dalla mattina alla sera al comune a guardare le carte, a studiarla, a sollecitare i perfettamente d'accordo, a poi sposare quello che è un servizio, non si può amministrare la città. E si devono seguire tutti i problemi, come quello dell'ospedale, punti nascita, come il dissesto che investe tutti i comuni. Ci sono centinaia di comuni che hanno dichiarato il dissesto o che si trovano sull'orlo del dissesto finanziario. Non è Cefalù solo, noi abbiamo focalizzato Cefalù per creare degli alibi, ma sono tutti i comuni che sono tutti in difficoltà. Questo è un argomento che dovremmo trattare a parte, perché Cefalù, per la ricchezza che ha avuto di introiti e di possibilità che ha, dovrebbe essere uno dei comuni più ricchi della Sicilia. Quindi partiamo da queste condizioni per ritornare ad essere un comune sano dal punto di vista economico, ci sono, e ci sono tutte. Bisogna che si realizzino determinati programmi e che si fanno determinate cose, e sfido chiunque a smentirmi. Io non ho paura della situazione finanziaria del comune, io ho paura della incapacità ad un impegno, alla ingovernabilità della città. E mi auguro di tutto cuore, se sono qui è per questo, che ognuno faccia un passo indietro rispetto a un progetto, a un programma e a un gruppo di persone che devono essere convinte di stare insieme, con scelte coraggiose. E che non si verifichi come per Torre Tonda, che non si è ammessa a finanziamento come è stato detto ora negli ultimi tempi. Bene, io ringrazio Giovanni Avanti, presidente della provincia regionale di Palermo, ringrazio l'avvocato Francesco Calabrese, ringrazio l'avvocato Roberto Carsello, il ragioniere Francesco Dolce, ringrazio l'ingegnere Salvatore Mangano. Io ho preso che sei ingegnere, quindi hai il DNA di tuo padre, e del movimento Urbe Città Nuova. Ringrazio Fabio Coco, che è ex presidente della Proloco, e ringrazio anche Riccardo Gervasi, che è intervenuto anche in questi discorsi, e l'avvocato Pino Agostara, che dopo la pausa interverrà per concludere un po' questa trasmissione qua e là. Totò Marsala, che è presente a Milano, lo abbiamo già fatto. Totò Marsala in linea? Lo dobbiamo chiamare, lo chiameremo. Allora chiameremo Totò Marsala, ci dice Angelo Arduino, il regista della trasmissione. Chiameremo Totò Marsala, anche se l'abbiamo avuto in studio la settimana scorsa, per sapere da lui qualcosa sulla BIT di Milano. E facciamo una breve pausa prima delle conclusioni. Pubblicità. Supermercato PAM Cefalù, una vasta scelta di prodotti, assortiti reparti di frutta, carne e formaggi e salumi. Offerte periodiche, tante idee e tanto risparmio. Il supermercato PAM Ferdico di Cefalù premia la tua spesa. Ogni 20 euro di spesa partecipi all'estrazione di fantastici buoni acquisto. Da 200 euro, 400 euro e 700 euro. Estrazione 29 febbraio 2012. Supermercato PAM, via Cirincione 62 Cefalù. Telefono 0921 420 167. Un'atmosfera da favola, le calette sala eventi. Una terrazza mozzafiato sul mare del Golfo di Presidiana Cefalù. Le calette sala eventi, per festeggiare matrimoni, battesimi, cresime, lauree e qualsiasi altro evento importante. Con terrazze e sala vista mare che possono ospitare fino a 300 persone. E dove la professionalità dello staff si sposa con il buon gusto. Vieni a visitarci. Le calette sala eventi, Contrada Presidiana Cefalù. E i sogni diventano realtà. Incredibile, strepitosa offerta scacciacrisi al ristorante pizzeria Ron e Salvo. Occhio, da oggi tutte le pizze consumate al tavolo verranno scontate del 50%. Il risparmio inizia da noi. Mangiare bene spendendo poco. Info e prenotazioni 091 81 40 159 oppure 347 59 62 101. Ristorante pizzeria Ron e Salvo, contrada Buonfornello, Termini Merese. Hobby Garden, piante ornamentali, piante da frutto e da orto, attrezzature agricole, hobbistica per giardinaggio, giochi d'acqua e accessori, programmatori e raccorderia per irrigazione, terrici universali, sementi per tappeti erbosi. Hobby Garden di Cova Salvatore, via Montessori, cortile 3, contrada Pacenzia, telefono 0921 92 17 51 a Cefalù. Hobby Garden vi ricorda i vivai Cova, a Campo Felice di Roccella, manutenzione di parchi, giardini, residence, prati, contrada Pista Vecchia, strada statale 113, Campo Felice di Roccella. Telefono 0921 428 927. Vivai Cova, di Fabio Cova. La convenienza di acquistare da chi produce. In questo periodo offerte eccezionali. Motosega alpina da potatura 180 euro. Piante da frutto, ulivi e agrumi di prima scelta 5 euro. Tre ciclamini con vasi in coccio 10 euro. Ricordate, tutto da Hobby Garden e Vivai Cova. La genuinità ha un solo nome: Polleria Rosticceria San Salvatore di Caccamo e Catanzaro. Troverai carni bianche di ottima qualità, dai tacchini ai polli alle paglie. Una scelta unica e gustosa. E ancora i polli disossati e rollò di pollo. E se non hai tempo per cucinare, proprio accanto trovi la rosticceria con polli allo spiedo, accompagnati da deliziose patatine fritte da gustare in un attimo. Ricorda, Polleria Rosticceria San Salvatore di Caccamo e Catanzaro, strada statale 113, numero 4753, contrada Pietra Pollastra, vicino al passaggio a livello di Cefalù. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. E riprendiamo la trasmissione qua e là tra una novità e l'altra, che si avvia un po' alla conclusione. Dovremmo avere in linea da Milano Totò Marsala, il quale ha fatto uno stand su Cefalù, vorremmo da sapere da lui com'è andata, come si è, ecco, il bilancio della situazione. Ciao Totò. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco. Io sono qui allo stand nostro, non mio, nostro, della nostra città. Cefalù City, ecco, Cefalù, ho visto la fotografia. Sì. Diciamo che abbiamo avuto un bel successo, non io, ma la nostra città. Gente che era venuta a Cefalù nel 70, 75, gente che non conosceva Cefalù, tour operator americani. Diciamo che la gente è rimasta contenta e stupefatta di questo stand della nostra città, e questo per me è importante, perché Cefalù, secondo me, aveva bisogno di mettersi un po' in mostra con le sue bellezze naturali, bellissime foto fatte da Nunzio Turco, una rivista che è stata veicolata e sta andando a ruba, parlando solo e esclusivamente di Cefalù. E sono emozionato, contento, felice. Abbiamo un libro dove la gente ha scritto tanti pensieri. Ora, questo ci fa piacere. Spero che sia un trampolino di lancio positivo, pieno di fiducia, per rilanciare di nuovo questa nostra città, che diciamo, venendo qui a Milano, dove ci sono 6.000 espositori, Cefalù deve e doveva esserci, ci sarà sempre, per quanto mi riguarda. Sì, hai avuto parecchio coraggio, perché so che hai affrontato parecchie spese, anche se ci sono state, qualcuno ti ha un po', qualche sì, albergatore o qualche altro ti ha supportato un poco, ma questo è sicuramente frutto del tuo coraggio, quello di avere portato Cefalù alla ribalta della BIT internazionale, quindi della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. E soprattutto, ecco, tu mi stai dicendo che hai avuto un bel successo, soprattutto per i visitatori che hanno potuto ammirare le belle fotografie di Turdo, credo, su Cefalù, me lo confermi? Sì, Nunzio Turdo, sì. E c'è pure un filmato fatto di Franco Turdo, infatti c'è pure un video che proietta delle immagini di Cefalù, quindi tutto ciò che riguarda il nostro paesaggio, l'Antinna Mare, tutti i nostri beni culturali, le festività, e Cefalù. Allora, tutta l'operazione, guarda, c'è molta trasparenza in questo. Noi abbiamo il patrocinio non oneroso del comune, che io ho accettato volentieri perché doveva assolutamente esserci il marchio della nostra città, va bene? Certo. Perché il marchio appartiene alla città. E poi sono stati gli albergatori e anche non albergatori che hanno contribuito alla notevole spesa, perché tutta l'operazione è costata 20.000 euro. Fortunatamente, dico fortunatamente, hanno creduto al mio progetto e più di 18.000 euro di sponsorizzazione le ho trovate. Il resto l'ho messo io, 2 mesi di lavoro, ma non mi interessa, non è la prima volta, lo continuo a fare. Per la mia città farò questo e altro, perché questo, merita tanto. Certo, questo ti rende onore, noi ti facciamo tanti tantissimi grazie, complimenti, grazie. E arrivederci a Cefalù. Ok, grazie, arrivederci. Ecco, grazie ancora e i saluti del nostro editore Angelo Arduino. E passiamo all'ultimo argomento. Abbiamo in studio l'avvocato Pino Agostaro, il quale, dopo aver scritto un libro Cavalli di Creta, ne ha un altro in cantiere dal titolo Come una nuvola. Voi conoscete già, i nostri radioascoltatori conoscono già, hanno sentito già l'avvocato Pino Agostaro, perché si è occupato di una rubrica riguardante le locazioni, che portava di settimana in settimana, dava dei preziosi consigli, utili consigli ai nostri radioascoltatori. Ora che sei in pensione di avvocato, Pino, ti dedichi alla poesia, a quanto pare, no? Ne hai fatte altre, e quindi sì, ma c'è anche, ecco, puoi parlare anche di qua, stando vicino. Ecco, ti dedichi di più alla poesia? Intanto saluto i nostri ascoltatori e auguro una buona domenica. Sì, diciamo che era un piccolo hobby di quando ero più giovane, o di quando ero meno anziano. Per cui un hobby che ti fa sognare. Ogni tanto dico poesie, io di sognare. D'altra parte ho pensato che i sogni nella vita servano a qualcosa, servono anzi piuttosto, servono tanto. Per cui sognare, sperare, credere, sviluppare o avere fiducia, quindi la certezza in tutto, in tutti i campi, naturalmente è un problema che va posto in questo senso. La poesia può aiutare, la poesia in questo senso. Beh, nel nuovo libro che andrò a pubblicare fra poco, forse con l'editore Marsala, che abbiamo appena ascoltato da Milano, viene riportato nel frontespizio una frase di Giuseppe Ungaretti, scritta a ragione di una poesia, e dico, riporto proprio tra virgolette quanto scriveva Giuseppe Ungaretti, che soltanto la poesia sola può recuperare l'uomo, persino quando ogni occhio si accorge per l'accumularsi delle disgrazie che la natura domina la ragione e che l'uomo è molto meno regolato dalla propria opera che non sia alla mercé dell'elemento. Di fronte a questo, diciamo, la poesia dà delle soluzioni, forse la poesia pone delle domande, e ad ogni domanda, a chiunque pone una domanda, verranno dietro anche altre, tante altre domande. Quindi, diciamo, cosa resta della poesia? La poesia dà una speranza, una gioia di vivere, e quindi deve migliorare un po' la società, deve fare sperare, deve portare avanti un discorso, quindi per un mondo evidentemente migliore. Cosa sono questa raccolta, come tante altre poesie, come la prima, non sono altro che espressioni di sentimenti comuni a tutti, che ognuno avverte e che espone, certo, in un proprio linguaggio, in una propria, ecco, io accanto, Pino, accanto a poesie che danno speranza, però ne ho trovato qualcuna impermeata da un certo pessimismo, da una certa dose di pessimismo. Ora la farò sentire, così voi ce ne rendiamo conto. Intanto partiamo con quella della speranza, il suo sorriso. cupole illuminate contro il cielo, gli occhi lucenti e le sue labbra rosse. Fiume che ci ascoltavi nella notte, portami con la sera il suo sorriso. E passando ad altro, diciamo la poesia che ha dato il titolo poi al tuo nuovo libro che ti appresti a pubblicare, Come una nuvola. Come una nuvola bianca su nel cielo, leggiadra ti dilegue al mio risveglio. Un altro sogno annega nel silenzio e sulla vela aleggia un vento stanco. Ecco, questa poesia mi fa pensare che ci sia anche una dose di stanchezza, di pessimismo, di qualcosa che via via che fugge, che tu cerchi di afferrare, ma che è già fuggito, che fugge. Non lo so se è una mia interpretazione oppure... Sai, le poesie vanno interpretate da ciascun lettore e ognuno trova un aspetto di verità in quello che vede. Evidentemente anche tu forse hai tratto in questa ultima, negli ultimi tre versi, sulla vela leggia un vento stanco. È il sogno che annega nel silenzio, cioè è un il sogno che svanisce nel silenzio. Quindi evidentemente allude qui, la poesia trae origine da un amore proiettato nel passato, un amore che è durato a lungo e che ritorna nel sogno. Però questo amore scompare come una nuvola e quindi si dilegua proprio al risveglio. I sogni, si dice, cadono all'alba. E allora, però, e aggiungo, un altro sogno annega nel silenzio. Quindi il sognare è il presupposto di una vita che è fatta pure anche di sogni. Il sogno, finché ci sono sogni, c'è speranza, c'è vita, in c'è questo gioia. Sono perfettamente d'accordo con te. E in tutto questo è meglio, diciamo, nella vita sognare. Evidentemente ritorna a volte che la stanchezza, e quindi forse qualcuno, e tu forse avrai indovinato, non lo so, la darai tu la risposta, forse questo vento stanco che aleggia sulla vela, beh, potrebbe essere un po' la vecchiaia che avanza e per cui i sogni vanno cominciano a scemare. Bene, volevo leggere un'ultima poesia, se me lo consenti. Camini fumanti dai tetti innevati, brandelli di neve ricoprono i prati, la pioggia copiosa ingrossa i torrenti, il mare si calma, riposano i venti ed è primavera, dai mille colori gli intensi profumi, il mandorlo in fiore. Ecco, con questo vorrei chiudere questa piacevole chiacchierata con l'avvocato Pino Agostara, con il poeta Pino Agostaro, che si diletta, che ora ha trovato una strada di poesia ben fatta, io direi, che io ho trovato abbastanza interessante. E cerca di far presto a stampare questo nuovo libro con le nuove poesie che via via hai portato, spero tra qualche mese, che sarà in edicola, come ecco. E quindi che l'editore Massala procederà un po' svelto nella pubblicazione, anche perché ecco, gliene avevo eventualmente parlato. E dopo questo quindi, spazio culturale che dal io, quale c'era bisogno. Dico, forse voleva aggiungere qualcosa. Dico, i nostri spettatori, i nostri ascoltatori, e vorrei dire vorrei salutarli con un arrivederci, che forse quella collaborazione di lavoro che qualche anno fa abbiamo avuto con ecco, se ci potesse, Angelo Arduino, se ci sarà un potrà seguito, riprendere ci anche perché gli argomenti legali non mancano in tutti i sensi, e soprattutto ora con le nuove imposte, con le nuove tassazioni, con l'IMU sulla prima casa e su altro, forse è necessario che qualche chiarimento certo, potrà tornare utile, utile agli elettori. Grazie avvocato Pino Agostaro. Grazie, e credo che per oggi sia proprio tutto. Da Angelo Arduino, Fabio Fiduccia e Mario Lombardo, una felice giornata ai nostri radioascoltatori.